dall'orologio incerto di Rock FM mancano 4 secondi alle 7.30. Secondo blocco di pane, burro e rock and roll. L'astronave è decollata. Venite con noi nel viaggio che ci porta al centro dell'universo. Ta-da! 335-100-7777. Le gambe delle donne. Un saluto a Luca da Genova che ci chiede perché quando metto via Locatelli 1 sul navigatore satellitare mi dice che esiste solo il 2? Non è che trasmettete da una cantina? No, Luca, è che essendo rock schiviamo anche i navigatori satellitari. Un saluto a Filippo, contento delle segnalazioni dell'omino che corre. Dice: un giorno verrò lì alle 7 apposta per vederlo, però ragazzi non è tornato indietro, quindi non era lui. Grandissimi, come sempre. Un saluto anche a Sam da Firenze, bruciatoristi fiorentini, già dalle 5.30 e nuovo gruppo d'ascolto che secondo me diventerà sempre più folto se andiamo avanti così, ovvero Mauro da Pisa, gruppo d'ascolto Sghiacciatori di Parabrezza. E tu a che gruppo d'ascolto appartieni? Faccelo sapere, mentre qua si continua a roccheggiare con i Doors. Roadhouse Blues. Yeah. When I wake up this morning, I got myself a beer. Mi è venuta un po' alla Morrison. and roll, baby. All night long. I Doors, Roadhouse Blues. E l'ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll lievita. Iniziamo con i gemellaggi dei gruppi d'ascolto. Apprezziamo tantissimo. Gemellaggio del gruppo bruciaturisti milanese, che chiede appunto un saluto a quello fiorentino milanese rappresentato dall'M64. I gemellaggi del gruppo d'ascolto ci fanno strippare. Gemellatevi quanto volete, crescete e moltiplicatevi. Occupiamoci però dell'annoso problema dell'ascolto frazionato, termine tecnico col quale venite indicati voi, amici ed amiche all'ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll, termine freddo con il quale i tecnici della radio vi chiamano, ovvero la presa di coscienza che a quest'ora della giornata solitamente non riuscite ad ascoltare tutta la trasmissione, ma soltanto dei blocchi. Visto che spesso e volentieri all'interno della seconda ora succede qualcosa di folle, non vedo perché non riproporlo anche a voi della prima ora. Che gentili che siamo, eh? Era il caso delle canzoni dei Beatles cantate in italiano che settimana scorsa, ahimè, non abbiamo proposto. Tra l'altro segnalo, nessuno si è lamentato di questo. Questo per farci capire la direzione della trasmissione dove deve andare. Sappiate che questa settimana ce n'è, c'è, è pronta la canzone dei Beatles in italiano. Ma bando alle ciance, vado a riproporvi un breve intervento di quello che è andato in onda venerdì alla seconda ora. Si parlava di immaginazione, si parlava della possibilità di battere la televisione grazie alla possibilità di immaginare in radio. E la possibilità di immaginare di trasferirsi con un salto temporale in uno studio di registrazione, là dove i grandi del rock stanno per incidere i loro grandi successi. Ma non ci accontentiamo solo di immaginare questo, ci spingiamo oltre e ci facciamo una domanda inquietante. E se David Bowie, nel momento in cui doveva incidere Rebel Yeah, si fosse presentato dopo una grossa colazione inglese, cosa sarebbe potuto succedere? Questo è un documento che immagina. Okay, David, are you ready? Okay, guys, I've got it. Yep, let's start with the first session. From the beginning, please. Okay. From the beginning, please. 3, 2, 1, go, David. You got it. Yeah. Yeah. Thank you. You got it, David. You got it. Yeah. Yeah, okay. Rubble, rubble. Oh, sorry. I'm so sorry. It was the breakfast. You know the breakfast, you see? Yeah, I got it. Okay, David, no problem. No problem. The bacon this morning, the bacon. Yeah, okay, no problem, David. Please, can we do it again? Okay, David, no problem. Are you ready? Yes, I am, thank you. 3, 2, 1, let's go. Okay. You got it, David. You got it. Okay? Here we go. 3, 2, 1. Rubber, rubber. Oh, sorry. It was the breakfast, I mean the bacon. Those fucking British pudding. Okay, David. No problem. Let's do it tomorrow, maybe. I don't know. Okay, it's better tomorrow. Thank you. Okay, let's do it tomorrow. Thank you. I'm so sorry. Excuse me. Pardon me. Okay, Tokyo, South America. Dancing in the street, dancing in Chicago. Diretta di pane, burro e rock and roll sulle attenzione, sulle frequenze. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, conto alla rovescia. Salerno, sì. Cosa c'è allora, nella sua mente? Una grandissima novità, un grandissimo bang. Esplosivo. Perché guardi, secondo l'arcivescovo di Armagh, un certo James Usher, allora il 23 ottobre oggi, alle 9 di mattina, il fuso orario non poco, è noto, ma del 4004 avanti Cristo, deve sapere che secondo i suoi calcoli avvenne la creazione dell'universo. Alla faccia! Cioè, ha datato il primo giorno del mondo. Sì. Creazionista. Era un creazionista. Perché, essendo un arcivesco, ha fatto tutti i suoi calcoli. Forse leggendo la Bibbia. Sicuramente. Avendo tutti i suoi riscontri. Sì. E ha detto che il 23 ottobre di domenica alle 9 di mattina, il buon Dio si è alzato presto e ha lavorato anche di domenica, e qui forse abbiamo era il primo una dei tre giorni, il primo giorno della settimana, sì, perché poi ci ha impiegato 7 giorni a farlo. Sì. Quindi oggi è il compleanno del mondo o tra 7 giorni? In effetti domenica la possiamo considerare però se era domenica, era la fine, la domenica si riposa. Esatto. Quindi a domenica è finito tutto, perfetto. Oggi è il compleanno del mondo. Ah, infatti. Quindi Dio aveva già lavorato per 7 giorni, esatto, svegliandosi forse ancora prima. Certamente. Quindi ha lavorato tutta la notte, perché se riesce a finirlo alle 9 del mattino. Alle 9 del mattino, certo, ha continuato a lavorare per tutta la settimana nel 4004 avanti Cristo. Ringraziamo l'arcivescovo James Usher per questa notizia fondamentale. Grazie arcivescovo. E alle 9 pronti con lo spumante, ragazzi, I'm not afraid to die. ashes remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Immediatamente una spada laser che faccia il rumore dei Depeche Mode. Questo qui, senti. Enjoy the silence. Sai che non l'avevo mai notata? Cioè sì, l'avevo notata, ma non avevo mai pensato di voler avere una spada laser che fa questo rumore. La volete anche voi? Ve la faremo avere a casa il prima possibile. Sicuramente farebbe comodo ad Alessandro. Gruppo d'ascolto Ponte all'Indiano, in coda perenne, Firenze che si incazza ogni mattina con voi di Pane, Burro e Rock and Roll. E Alessandro, avere una spada laser che fa lì in coda, li neutralizzi tutti. Violenta come immagine, eh? Ma so che a voi in coda a quest'ora farebbe molto piacere poter disintegrare una dozzina di autovetture, così, tanto per arrivare prima al posto di lavoro. Un saluto a Gloria da Firenze, che è il primo essere umano a inviarci un SMS che inizia con simpaticissimi. Oggi è il compleanno del piccolo Cosimo, 18 anni. Beh, piccolo, 18 anni! Dai, Gloria! Potete fargli gli auguri rock in diretta? Eccolo qui. Bella Cosimo, siamo in squadra con te. Simpaticissimi, proseguiamo con... Frick, insisto, sei bellissimo e mitico. Frick apprezza. Un saluto al gruppo d'ascolto gruisti e piattoformisti fiorentini, Marco da Firenze. Un saluto sempre al nostro unico radioascoltatore napoletano, sempre presente. Tanti apprezzamenti per la versione di David Bowie, Ruttone, da far impallidire, siete troppo avanti. Oggi 23 ottobre, all'età di 23 anni, festeggio 5 anni di patente. Quella per la macchina però, eh. Che dici, li gioco? Elena, patente 201. Prova. Gioca un po' anche per noi. Si divide però se ti abbiamo dato... Cioè, se vinci con la strombazzata si divide. Un ultimo saluto a Franz, a quale chiederei di non ironizzare su certe cose perché qui siamo molto preoccupati. Lui scrive: ma il rapporto di amicizia che c'è tra voi, maestri delle sacre patenti da vero rocker, e noi... è a tempo determinato o indeterminato? Vi prego, rispondetemi. Astenersi per di tempo, fermo posto a Cordusio. Franz, dicevo, non scherzare, perché qui, tra una riunione di redazione e l'altra, siamo veramente disperati, perché vorremmo arrivare a distribuire il prima possibile patenti nelle altre terre non ancora toccate dalla patente da vero rocker, ma non riusciamo bene a capire dove, come, quando. Se avete delle buone idee e soprattutto un cortile molto ampio, oppure siete di qualche comune che vuole ospitarci, noi di Pane, Burro e Rock and Roll siamo pronti a venire in qualsiasi condizione e ovunque a distribuire patenti da vero rocker. Vi ricordo, non chiedetevi cosa pane, burro e rock and roll può fare per voi, bensì cosa voi potete fare per pane, burro e rock and roll, che intanto prosegue la mattinata in dolcezza. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Diventando un vero e proprio tormentone il nostro gruppo d'ascolto per i bambini, il nostro piccolo rocker di riferimento. Sì, ma che è anche un momento importantissimo perché è l'aggancio con i giovanissimi ascoltatori, anche il futuro. Il messaggio positivo che cerchiamo di dare: bisogna andare a scuola, non bisogna fare come Francesco. Speriamo che quest'oggi vada tutto bene. Francesco, ci sei? Eccolo. Ciao Francesco. Ciao. Come va? Come va quest'oggi? Tutto a posto? Tutto bene, sì. Mi raccomando, ce la facciamo quest'oggi oppure no? A fa che? È andare a scuola, Francesco. A scuola? Io non sto a scuola adesso. No. Non ci vado a scuola io. No, in che senso non ci vai a scuola, Francesco? Non ci vado. Perché non ci vuoi andare? Perché ruota la macchina. Ruota a terra, tutte. Scusa, non ho capito, tutte le ruote a terra? Tutte e quattro. Quattro, so. Cosa è successo, Francesco? Allora sai contare, Francesco? No, ma mi hanno detto, mi ha detto il meccanico. Ha detto il meccanico. Il gommista. Non farci preoccupare. Dov'è la mamma? La mamma sta col meccanico. Per... Che quattro ruote a terra, quattro ruote. Io non ci posso credere, ma come è successo questa cosa delle quattro ruote a terra, Francesco? Tutte qua. Puntine, ho messo le puntine nella macchina. No, Francesco, no. Non ho, faccio finta di non. Io non so capace a svitarmi, no. No, in che senso? Non ci so fare, non ci so fare, c'è le manine piccolette, oh. Che non... 4 anni e mezzo. Che non riesci a svuotare i bidoni. Hai messo le puntine da disegno. Le puntine, sì, puntine. Ma, io ci voglio nascere. Quanti ne hai messi di chiodini, Francesco? Tanti, rubati a scuola. No, tanto non ci posso credere. Ci vuoi mai, manco lo sanno che ci sono io. Sì, no, io non ci posso veramente credere, Francesco. Devi smetterla di fare queste cose. Ma io voglio ascoltare, ma è vero, ragazzi. Sì, no, l'abbiamo capito. Ma metti Megadeth. Te li mettiamo. Sì, li mettiamo, promesso. Oh, regà, mo devo andare, mi sta chiamando mamma, ma mi ha scoperto. In che senso? Ho bisogno di soldi, io rubo il portafoglio. No, Francesco, per favore. Ma deve pagare il meccanico. E deve pagare il meccanico. Alla tua età non si ruba. Alla prossima, Francesco, e non rubare più il portafoglio a mamma. Poveretta, quella santa donna. Eccomi, ti hai i soldi. Ciao. Ciao. Santa donna. Incredibile. Santa donna. Francesco, un rocker. Ma ti immagini un figlio così? Frigo, dimmi Rogna, hai visto che bel pezzo di topa è quella della gabbia 32? Ma chi Rogna, Lorenzo il Travone? Ma che cazzo stai dicendo, Frigo? No, niente, solo che quello che sta alla 32 è un topo, non è una topa. Ma dai, non dire stronzate, sei solo invidioso. Ma hai visto quando sta in piedi che davanzale che c'ha? Mi attizza un casino quella cavia. Oh, fai come vuoi, ma sappi che dopo 7 mesi di cura ormonale, anche a me verrebbe un davanzale così. Cure ormonali? Sì, da 7 mesi. Mannaggia, maledetti umani.